Essere e benessere di Nicoletta Carbone. C'è un momento della vita in cui il cibo risulta oltremodo necessario. Certo, il cibo ci serve sempre, risponde ad un bisogno primario dell'uomo e finalizzato alla sopravvivenza, ma in adolescenza, come così nella prima infanzia, il cibo è un carburante di importanza davvero speciale. Eppure gli adolescenti spesso mangiano male, a volte mangiano troppo, a volte mangiano troppo poco, a volte mangiano in modo totalmente inadeguato rispetto ai loro bisogni effettivi. Allora, vivete con un adolescente? Chiamateci 800 24 00 24, questa è la vostra puntata, ma dato che adolescenti lo siamo stati tutti, oggi potrebbe essere anche un'occasione per provare a considerare come e se il nostro rapporto con il cibo è cambiato in quegli anni in cui da bambini ci siamo trasformati in ragazzi. Quali abitudini di quegli anni ci siamo portati dentro? Quali invece abbiamo dovuto o voluto abbandonare? 800 24 00 24. Ma la prima domanda a cui chiedo di rispondermi oggi è: quanti pasti consumate con i vostri ragazzi e su quali basi costruite il menù? Una volta, se vi ricordate, c'era l'abitudine di fare in alcuni giorni specifici della settimana sempre lo stesso piatto, no? Cadenzato. C'erano giovedì gnocchi, ad esempio, venerdì pesce. Adesso le cose stanno in modo un po' differente. Cucciolo, ho cucinato tutta questa roba per te, non mangi niente. Ehi, che ti prende? Quel coso va mangiato con tutta la pelle. Papà, nel pollo tutte le calorie si trovano nella pelle e nel grasso, perciò lo... Cos'è tutta questa storia di grasse calorie? Sai chi te l'ha messo in testa quella dannata televisione? Ogni volta che l'accendi vedi uno che parla di perdere peso, essere sano, tornare in forma. Vanno tutti in giro da anoressici dicendo che quella è salute. Io so cos'è sano e ti dico anche un'altra cosa. Tanto per cominciare, non capisco perché tutti vogliono perdere peso. Non dobbiamo essere per forza della stessa misura, dobbiamo essere diversi. Grandi, piccoli, medi, nani, tutto questo è già contemplato. Non so perché vogliono essere tutti della stessa misura. Intanto che voi mi chiamate o mi scrivete, intanto saluto il professor Lelio Morricone, primario di diabetologia e malattie metaboliche al Policlinico San Donato. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Vedevo che se la rideva sentendo questo breve estratto dal professore Matto. È assolutamente divertente, ma effettivamente può essere considerato un vero specchio della realtà, perché indubbiamente rispetto alle problematiche legate alla nutrizione, al cibo e all'immagine corporea, le contraddizioni e gli aspetti invece rilevanti ed importanti sono davvero molteplici, e quindi questo è uno spunto divertente che però c'entra in pieno il problema. Professore, le scuole sono finite, ma noi facciamo finta di niente, diamo i voti ai ragazzi, ma diamoli anche ai genitori, perché è troppo facile dire che i nostri figli mangiano male. Noi abbiamo una grossa parte di responsabilità. È assolutamente vero. L'educazione alimentare deve passare attraverso una collaborazione tra i ragazzi, i genitori e naturalmente anche la scuola, allo scopo di meglio orientare i consumi alimentari dei ragazzi stessi, e questo credo rappresenti un elemento fondamentale nel rapporto che il ragazzo costruisce con il cibo, con l'immagine di sé, ed in cui evidentemente i genitori devono essere una guida fondamentale. È proprio vero. E qua in studio Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Medico ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta. Perché Alberto Pellai? Perché il rapporto con il cibo può essere considerato, come anticipava il professor Morricone, a tutti gli effetti una relazione. Alberto Pellai è a tutti gli effetti l'esperto di essere benessere in relazioni. Alberto. Beh, tutti noi siamo venuti al mondo e siamo cresciuti entrando in una relazione privilegiata che è quella con la nostra mamma, e che è stata anche la prima e principale fornitrice di cibo, e tutte le donne che allattano oppure anche che danno il latte attraverso il biberon sanno che il problema non è solo cosa c'è dentro al latte, ma anche cosa c'è dentro alla relazione con il mio bambino. C'è poi un salto di qualità che è quello dello svezzamento, poi la mensa a scuola. Ogni mamma, ogni volta che va a prendere il suo bambino, per esempio alla scuola materna, la classica domanda che fa è: hai mangiato oggi? E qua dentro ci sono tantissimi aspetti che non sono legati solo alla dimensione nutrizionale, ma proprio a cosa c'è nel piatto. Ci sono qualità relazionale tra noi e gli adulti significativi. negativi. E quando entri in adolescenza, per esempio, se hai avuto una mamma ultra biologica, ultra attenta, magari scopri che hai proprio un figlio adolescente che vuole ingozzarsi di tutti quei cibi che erano stati vietati in prima e seconda infanzia. Cosa c'è lì dentro? Solo un codice nutrizionale o qualcos'altro, un messaggio che vuole significare? Parliamone insieme oggi in questa puntata, dove affronteremo proprio il rapporto che gli adolescenti hanno con il cibo, ma lo faremo da più angolature. Professore, è vero, noi siamo cresciuti con mangia, che diventi grande, c'è una grande verità in questa raccomandazione, ma di che cosa ha bisogno un organismo in crescita? Quali sono le carenze più frequenti e pericolose della dieta dei nostri ragazzi, che sono certamente iperalimentati ma rischiano di essere malnutriti? Il rischio legato al concetto mangia che devi crescere è poi una estrapolazione di questo concetto che fa in qualche modo individuare il fatto che il bambino e il ragazzo sia molto florido con il fatto che sia in perfetta salute, cosa che invece è dimostrato dal punto di vista scientifico non sia assolutamente vero. Gli errori che vengono fatti più comunemente sono sicuramente, da una parte, quella di impiegare meno del dovuto gli alimenti, diciamo così, di origine vegetale, quindi prevalentemente la frutta e la verdura, e d'altra parte spesso di impiegare alimenti ad alto contenuto calorico e ad alto tenore lipidico, perché purtroppo l'aggiunta dei lipidi ai cibi, anche nella loro preparazione, ne conferisce indubbiamente una maggior palatabilità. Certo. Ma ciò non significa che facciano bene. Io ritorno a chiedervi quanti pasti consumate insieme ai vostri figli e in base a quali criteri create il menù. La domanda non ve la pongo a caso, ma per iniziare a commentare insieme i dati di uno studio. Secondo i dati di uno studio pubblicato sul Journal of Nutrition, Education and Behavior, i bambini che sono abituati a consumare con i familiari almeno 5 pasti alla settimana acquisiscono e mantengono comportamenti alimentari corretti più facilmente degli altri. I 677 giovani adolescenti statunitensi coinvolti nello studio hanno risposto a un primo questionario sulle loro abitudini alimentari all'inizio dell'adolescenza, età media 13 anni, e a un secondo, età media 17 anni. Nello studio di uno degli autori dell'articolo, Terry Bourges-Champeau, dell'Università del Minnesota, il numero di pasti regolarmente consumati in famiglia si dimezza dai 12-13 anni ai 17-18 anni, passando dal 60 al 30%. Anche se con il passare degli anni l'abitudine a mangiare insieme ai propri familiari diventa sempre meno diffusa tra i ragazzi, i benefici derivanti da pranzi e cene in famiglia si mantengono negli anni e si traducono in diete più ricche di cibi salutari come verdura, fibre e alimenti ad alto contenuto di calcio e nutrienti essenziali. Questo non significa che il regime alimentare dei ragazzi che consumano regolarmente pasti in famiglia raggiunga i contenuti e le composizioni alimentari raccomandati dai nutrizionisti, ma sicuramente, in media, si tratta di diete di qualità, se non altro rispetto a quelle dei ragazzi per i quali non esiste tale consuetudine. Insomma, si potrebbe dire mangiare insieme, mangiare in famiglia fa bene, ma che cosa succede nelle famiglie italiane? In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Renato Mannheimer, presidente ISPO, che ha fotografato in una ricerca la famiglia in tavola, il ruolo dei pasti nella famiglia italiana e la situazione. Professor Mannheimer, grazie, che piacere. Buongiorno e grazie a voi. Professore, qualche decennio fa era normale che si consumassero da 2 o 3 pasti assieme in famiglia, oggi invece in molte famiglie questo non è più possibile perché spesso tutti e due i genitori lavorano, i ragazzi quando vanno a scuola hanno lezioni anche al pomeriggio, hanno impegni extrascolastici e comunque i pasti in comune sono un appuntamento importante, come abbiamo appena sottolineato. Ma cosa emerge dalla vostra ricerca? Ma intanto che tanti italiani mangiano lo stesso a casa anche a mezzogiorno tutti i giorni, almeno metà, siamo noi che viviamo nelle grandi metropoli stressati dal lavoro che non lo facciamo, ma tanti italiani lo fanno. Secondo, che il pasto, sia esso a mezzogiorno sia esso la sera, diventa un evento fondamentale nella famiglia, cioè viene aspettato con ansia quasi, perché diventa un evento di gioia. Il pasto diventa il momento dell'interazione con gli altri familiari, dello scambio di opinioni, del racconto di cosa si è fatto nella giornata, cioè è un momento fondamentale della nostra vita. Professore, al centro dell'indagine c'è anche un approfondimento relativo alla preparazione dei pasti, quindi dalla pianificazione alla cucina dei piatti, che mette in luce anche diverse tipologie di atteggiamento sociale delle mamme italiane nei confronti della preparazione del pasto. Parlo di mamme perché siamo sempre noi, maggior parte dei casi almeno, noi che prepariamo. Non sempre, c'è qualche maschio eroico che si dedica a lui, ma sono pochissimi. Anzi, noi abbiamo calcolato il tempo che le donne ci mettono, specie quelle che lavorano, che tra fare lavorare, fare il pasto, occuparsi della casa, eccetera, e la giornata della donna risulta, come si sa, di circa 27 ore. Come facciano in 24 ore a lavorare per 27, io non lo so bene, essendo maschio, ma è così. Ci sono diverse tipologie. C'è chi comincia a pensare alla preparazione del pasto il giorno prima, addirittura si annota la sera prima di andare a letto che cosa comprare, e organizza, essendo un momento di grande interazione sociale, di grande importanza, c'è il tipo di mamma che ci pensa, fino ad arrivare al tipo di mamma che invece decide sul momento. In tutto però la creazione del pasto è un elemento di grande rilievo sociale, di importanza sociale. Professor Mannheimer, grazie per essere stato con noi. Le auguro buona giornata. Vorrei commentare un po' questi dati insieme ai miei due esperti, sia Alberto Pellai che il professor Morricone. Alberto. Credo che l'aspetto fondamentale è proprio questo, che nel piatto oltre al cibo ci va e la voglia di stare insieme, e che per un nucleo familiare con figli in età evolutiva questa dimensione conviviale è fondamentale anche ai fini educativi. La ricerca che hai citato tu è una ricerca che ci dice più mangiamo insieme e meglio mangiamo, ma c'è per esempio un'altra ricerca che tra le altre cose avevamo commentato anche insieme in una precedente trasmissione: i figli che hanno numerosi pasti con i propri familiari risultano anche molto più protetti da numerosissimi comportamenti a rischio, fumano meno, bevono meno, si drogano meno. È come dire che l'intorno al tavolo c'è una dimensione che struttura il percorso di crescita e che naturalmente passa anche attraverso quello che c'è nel piatto. Tommaso ci chiama da Cuneo, 800 24 00 24. Tommaso, buongiorno. Buongiorno a voi. Praticamente mi avete un po' anticipato. Secondo me, io ho 63 anni, quindi magari un po' di esperienza c'è. Il convivio a tavola è basilare, però secondo me oggi il convivio è troppo disturbato nel rispondere a cose esterne. Intendo dire, si risponde alla TV, si risponde ai messaggi. Con il convivio si comincia l'educazione a tavola, secondo me, nel senso di parlare della vita di tutti i giorni, di tutte le cose, però si insegna anche a mangiare e si riesce, secondo me, a ridistribuire delle cose che altrimenti oggi con la vita moderna diventa un po' difficile. Non so se mi sono spiegato. Benissimo, Tommaso, la ringrazio. Passerei a Giordano dalla provincia di Lecco. Buongiorno, Giordano. Buongiorno. Buongiorno a lei. Giordano, cosa ci racconta? No, niente, io avevo appena iniziato a seguire la trasmissione, ma non volevo sapere, siccome un adolescente... Sì? Che mangia forse un po' troppo, volevo avere... Allora, quando noi, professor Morricone, quando noi genitori diciamo il mio ragazzo mangia un po' troppo, ecco, lo facciamo un po' perché vediamo la quantità, magari non risponde a quelli che sono secondo noi i criteri di uno stile alimentare adeguato, oppure perché lo vediamo sovrappeso. Correggere le abitudini alimentari dei nostri figli, specie se in adolescenza, è abbastanza difficile. Dire non mangia di meno... si ha paura che poi prenda troppo alla lettera questo invito, insomma, come bisogna muoversi? È assolutamente vero, il problema è evitare la classica metafora dell'elefante nella cristalleria, perché se un intervento a quest'età risulta coercitivo, verosimilmente dal punto di vista dell'apprendimento dei comportamenti alimentari la ricaduta è quasi nulla. Bisogna riuscire al contempo a fare apprezzare le qualità, le doti e anche il piacere del cibo, e a far passare il messaggio che ciò è tuttavia compatibile con la possibilità di mantenere il peso corporeo entro termini accettabili. Per quanto riguarda il nostro ascoltatore, siccome spesso i ragazzi hanno fame, sono loro che chiedono, è opportuno a mio giudizio avere proprio un atteggiamento che da una parte non costringa eccessivamente il ragazzo a quest'età, dall'altra parte per esempio, non ci stancheremo mai di dirlo, incitarlo all'attività fisica, perché l'attività fisica, oltre a garantire evidentemente un bilancio energetico più favorevole, certo, è un eccellente modulatore dell'appetito, e quindi chi fa attività fisica in maniera costante in realtà ha meno fame di un soggetto pigro. E a proposito di fame, cerchiamo di aiutare e convincere i nostri ragazzi a non saltare la prima colazione, che è un pasto fondamentale che spesso o per fretta o per cattive abitudini si tende a saltare. Ma voi invece avete fatto, voi, perché parlo al plurale, perché è un gruppo molto attivo, avete fatto un progetto bellissimo, si chiama Progetto IT, e qua abbiamo un collega del professor Morricone, il dottor Alexis Elias Malavazzos. Buongiorno. Buongiorno, volevo dirlo tutto questo bel nome greco. Responsabile del progetto Servizio Dietetica e Nutrizione Clinica e Prevenzione Cardiometabolica al Policlinico San Donato. È nato, sì, Progetto IT, un progetto che è proprio destinato agli adolescenti, diciamo in quella prima adolescenza, ai ragazzi che frequentano le scuole medie. Come l'avete impostato e avete ottenuto dei risultati che sono molto interessanti e da cui noi possiamo prendere spunto nella puntata di oggi, in cui noi genitori vogliamo sapere da voi come aiutare i nostri figli a nutrirsi in modo adeguato. Progetto che nasce già da 2 anni in corso, e tornando proprio allo spunto della colazione, molto importante. Noi abbiamo cercato di far capire ai ragazzi il perché di fare la colazione, non soltanto consigliarglielo o ordinarglielo, spiegando loro che quando vai a scuola l'organo che usi di più è il cervello, e se tu non dai la benzina al cervello risulta essere molto più complicato apprendere e stare attenti. Noi, se osserviamo questi ragazzi verso la quinta, la sesta ora, vediamo che molto spesso si assopiscono, si distraggono, guardano fuori dalla finestra. In realtà non è soltanto la non affezione alla materia che stanno seguendo, in realtà è la mancanza di principi nutritivi, quindi come possono essere i carboidrati, che danno l'energia al cervello per supportare e favorire l'apprendimento. Quindi chi fa la colazione ha una marcia in più. Ha una marcia in più e più facilmente apprende. Quindi è molto semplice. Adesso le scuole sono finite, ma noi approfitteremo dei nostri esperti perché per far sì che proprio in questo periodo di vacanze riusciamo a resettare controllare le abitudini dei nostri figli, sempre con garbo, perché l'imposizione, abbiamo visto, non funziona, specie negli adolescenti che amano, certo, misurarsi, dimostrare di essere giovani, indipendenti, liberi, infallibili, eccetera. Tanti consigli quindi, come quelli che ogni giorno vi danno i nostri esperti del Daily Lab, il nostro laboratorio del benessere. Basta un click per diventare consapevoli e quindi diventare veramente protagonisti attivi del proprio benessere. Basta andare sul sito di Radio 24 e cliccate sul Daily Lab. Essere e benessere. Basta con le provocazioni, almeno qui a tavola. Sono stanca delle vostre liti. Tranquilla, Maca. L'ha detto con tono affettuoso. Dovete cambiare le vostre abitudini. A tavola si arriva in orario, chiaro? Non quando volete voi. Ragazze, dovete imparare a rispettare le regole di questa casa o cesserà qualunque trattamento di favore. Tovaglioli, buon appetito. Marisa, mi passi il succo? Come, scusa? Mi passi il succo. A parte Marisa, chi ne vuole ancora? Non la voglio. Tu, ancora? No, ho mentito. La voglio. Io, per favore. Tu? Sì, ho molta fame. Sì, di solito mangi come un uccellino, lasci la roba nel piatto. Oggi però ho fame. Che cosa mangerete oggi insieme ai vostri ragazzi? Avete già pensato al menù? Improvviserete? Quando mangerete oggi insieme, a pranzo e cena, solo a cena? Volete farci entrare a casa vostra 800 24 00 24 e aiutarci a capire quali sono i problemi, no, che vi si presentano quando dovete costruire un menù che sia adatto al marito, ai grandi, ai piccoli, che assecondi un po' i gusti dei vostri figli, che che spesso non amano mangiare proprio la frutta e la verdura, che dovrebbero essere invece gli alimenti cardine della dieta. E ne parliamo oggi con tanti esperti, soprattutto con voi che state intervenendo all'800 24 00 24. Abbiamo qua in studio il professor Morricone, il dottor Malavazzo, Salberto Pellai, perché vogliamo proprio parlare di cibo a 360 gradi, questa magnifica relazione che abbiamo con gli alimenti, con quello che mettiamo nel piatto, ma anche come lo mettiamo nel piatto e che nutrimento abbiamo, non solamente a livello di calorie, ma proprio come rapporto. Dottor Malavazzo, sappiamo Daniele che ci chiama dalla provincia di Alessandria, vediamo se di che cosa ha bisogno o se ci aiuta invece con la sua esperienza. Buongiorno a lei, Daniele. Buongiorno. Ci racconti? Io ho un figlio che ha 19 anni e che era un po' in sovrappeso e ha deciso di perdere peso così, insomma, improvvisamente. Premetto che ha il diabete di tipo 1 e quindi per quanto riguarda mangiare insieme lo si fa, certo. Però a volte se è basso, oppure se è in ipoglicemia, oppure non so, per altri motivi, e magari certo. mangia un po' prima, anticipa il pasto e poi a tavola o viene e si chiacchiera, oppure magari sta in camera sua, insomma. Allora, mi dica, e comunque lui ha perso peso e ha fatto una dieta da solo? Ha fatto una dieta da solo perché segue regolarmente i controlli, sì, del reparto di diabetologia di Alessandria, però aveva quest'urgenza, probabilmente dettata, si è risvegliato in lui il fatto che secondo lui era troppo in sovrappeso, e quindi in un mese ha perso un bel po' di chili, perché da 94, 95 o 96 è passato a 78. Professor Morricone, circa un mese, roba da star male. Però roba da star male, giustamente. Daniele ci racconta dalla provincia di Alessandria. Professor Morricone, diete fai da te, poi in una situazione come il ragazzo di Daniele, che è affetto di diabete di tipo 1. Direi che un primo messaggio da mandare è che generalmente o praticamente sempre un calo ponderale troppo rapido non è cosa buona per l'organismo. Il secondo messaggio da mandare è che generalmente il trattamento dietetico deve essere suggerito, consigliato e supportato da un esperto, cioè da un medico specialista. In questo caso, per esempio, il figlio del radioascoltatore, verosimilmente rivolgendosi a un centro diabetologico, avrebbe potuto avere dei consigli sicuramente adeguati, però ha preferito, perché questi sono messaggi fuorvianti che vengono spesso lanciati e che si leggono dappertutto, delle scorciatoie, illudendosi che la rapidità di un risultato corrisponda all'efficacia di un risultato. In realtà non è così. Quando si perde peso rapidamente, la possibilità di recuperare il peso perso è altissima nei mesi successivi. E a proposito di giovanissimi, abbiamo in linea con noi Francesca Nicoli. Buongiorno, ciao Francesca. Buongiorno. Giovanissima. Buongiorno di amici. Tutti. Senti Francesca, abbiamo proprio bisogno di avere un po' il tuo contributo. Tu, stando nel programma, sei venuta naturalmente a contatto con ragazzi della tua età. Cosa vi raccontate sul peso? Come mangiate? Facci un po' da inviata. Sì, noi all'interno della scuola siamo stati anche visitati uno per uno, soprattutto noi ragazze, da due nutrizioniste, proprio apposta per o conservare il nostro peso, o addirittura alcune dovevano aggiungerlo o perderlo a seconda del proprio fabbisogno. Io personalmente mangio i pasti principali, all'ora principale. È una cosa che all'interno di amici è molto facile, perché si hanno degli orari per mangiare. Quindi a proposito delle regole, no? Abbiamo sentito un breve estratto da Nina Small. Dottor Malavazzos, sì. Francesca ci dice, ecco, a proposito di regole, dei pasti, allora giusta, questo aiuta, sì, questo, i ragazzi questo, ad avere questo un fatto delle rapporto regole equilibrato con il pasto? Sì, questo fatto delle regole aiuta tantissimo, la cadenza dei tre pasti principali, quindi colazione, pranzo, cena, aiuta tantissimo, si possono così integrare i momenti di attività fisica, che penso che in questo programma sia un po' alla base, quindi il fatto di sapere più o meno a che ora mangiare aiuta tantissimo. Questo riesce anche a modulare il fatto di introdurre degli spuntini che molto spesso noi consigliamo a base di frutta. che servono proprio, lo spuntino serve ad arrivare al pasto principale con la fame giusta, senza dover aggredire poi il tavolo e le, senza mangiare la coscia prima, del vicino. Prima di mangiare e fare gli spuntini, cosiddetto aperitivo, mentre si cucina. Poi si arriva al pasto, non si ha fame, e dopo il pasto invece viene la fame. Quindi si rivoluziona un po' tutto. Gli orari sono importanti e le cadenze ancora di più. Francesca, tu sei la nostra ospite più giovane oggi, sei diciottenne, sei molto amata dalle ragazze, hai proprio tutto un giro, un gruppo di fans che hanno costruito dei siti che parlano di te, ma per quale motivo secondo te nel mondo di voi ragazze è entrato così potente questo falso mito che magra è bello e conseguentemente alla fine il messaggio tante volte che passa è mangia meno cibo possibile se vuoi essere magra e quindi bella? E cosa può fare una ragazza come te, così popolare tra le ragazze, per cambiare questo genere di stereotipi? È la cosa più sbagliata, quella di pensare di mangiare poco per dimagrire. Secondo me è sbagliatissimo. Io sin da piccola sono stata comunque abituata dai miei genitori a mangiare agli orari precisi, la mattina prima di andare a scuola una bella colazione, e io non so se faccio bene, visto che ci sono gli esperti lì in studio con voi, potrebbero, già che potrei anche approfittarne, io mangio salato la mattina, bevo un tè, che serve anche a me, essendo cantante, per svegliare un po' la voce con il miele, e poi a metà mattinata, verso le 10:30-11, mangio una mela. Perfetto. E a mezzogiorno mangio il primo, il secondo e di nuovo la frutta. Perfetto. Poi prima della cena mangio sempre cose, comunque mai cose secche, mai crackers, quelle cose, perché non riempono, comunque non ti saziano e ti fanno solamente male. Quindi andiamo di nuovo con le mele, il primo leggero. Cioè, se mangio pasta non mangio poi dopo la carne, ma preferisco melanzane, zucchine, spinaci, però anch'io, cioè da adesso, da quando ho fatto 17-18 anni che mangio così, prima anch'io mangiavo un po', come si dice, alla carlona, no? A sentirti parlare sembreresti la figlia ideale che tutti vorrebbero avere a tavola, e viene proprio da dire com'è semplice. Come il tuo successo. Sì. Mentre vai via, lascia dietro uno spiraglio di luce, la quiete. Penso che sia sete di nuove distanze, avventure rischiose. Perché Francesca, grazie per essere intervenuta, una giovanissima che veramente può fare scuola, molto saggia. Grazie mille a voi per hai stregato anche gli ospiti di Essere Benessere. Complimenti, perché poi raccontava tutto con molta naturalezza, soprattutto vuol dire che lo pratica veramente. Queste sono le risposte rapide, gli spuntini giusti. Sì, magari visto che parlava di carne, un'alternativa che bisogna sempre suggerire alla carne sono i legumi, che hanno lo stesso apporto di proteine, quindi per la fase di costruzione della muscolatura in chi fa attività fisica è importante. Francesca, io vi dico una cosa, lenticchie, che dici? Io sinceramente prima di entrare da Micio avevo anche a casa una, chiamiamola dieta equilibrata, perché dieta non vuol dire mangiare poco, ecco, ma togliamo questa parola. E seguisse, per quanto ne so io, si sa che io ogni tanto sbaglio, però se non mi sbaglio dieta non vuol dire mangiare poco, ma vuol dire mangiare giusto per come il tuo corpo ha bisogno. Senti Francesca, qua stravinci, ti vogliamo invitare qua in studio. Aspettiamo. Anzi, bisogna che tu molto insieme volentieri al professor Morricone e al dottor Malavazzos diventi testimonial anche di questo progetto che loro stanno molto portando importante avanti nelle scuole medie. Francesca, un abbraccio. Sì, perché io combatto anche con molte mie amiche che si guardano allo specchio e dicono ma sono grassa, e non vuol dire niente che sei grassa, devi fare movimento soprattutto e mangiare. Guarda, io le dico alle amiche mie, io alle mie amiche gli ho fatto la dieta anche, perché proprio so l'ho provato sulla mia pelle. Noi alla mia il lunedì avevamo un pasto, il martedì avevamo i legumi fissi, vedi? Il mercoledì avevamo il pesce, il giovedì mamma faceva la pizza a pranzo, perché ogni tanto ci vuole anche, certo, perché comunque la pizza, questa è anche questione dei genitori, che ti mangi queste cose che non sono buone, invece no, una pizza vale come un bel piattone di pasta asciutta, assolutamente, bella. Francesca, grazie per essere stato grazie con noi. A voi. Essere e benessere. Voglio leggermi un messaggio molto carino che mi ha scritto Antonio da Venezia. Uno spunto: per invogliare le bimbe a mangiare carne e verdure mi invento degli spiedini con nomi fantasiosi, così loro sono stimolate a contare quanti stecchini sono riusciti a finire. Il cibo per loro è più interessante se l'aspetto è simpatico. Tornerei al progetto IT, dottor Malavazzo. Sì. Voi avete proprio prodotto dei dati, ma sì, soprattutto avete prodotto anche un modo di affrontare questo tema. Noi abbiamo cercato di usare degli strumenti per poter andare a vedere l'efficacia di questi progetti, perché molto spesso non si va a vedere se funzionano le cose che si fanno. Quindi la proposta pedagogica permanente che si vuol fare, che è quella dell'educazione alimentare con una continuità nel tempo, ci ha permesso, facciamo un esempio molto pratico, quello di riuscire a far ridurre ai nostri ragazzi il consumo di bevande zuccherate durante i pasti. Cioè, quindi a tavola molto spesso si pasteggiava con bevande zuccherate, senza fare i nomi famosi. Siete tornati invece ormai con siamo acqua. Tornati a far pasteggiare i ragazzi con l'acqua. E questo, quindi, è già un risparmio di calorie molto importante, soprattutto l'acqua disseta, le bevande zuccherate non dissetano. Quindi ai nostri genitori all'ascolto che mi chiedono ad esempio come riuscire ad esempio a far mangiare le verdure ai loro ragazzi, ci sono proprio dei rifiuti totali, certo. E allora le mamme magari si adeguano, perché è difficile, no? Poi cercare di tutte le volte mangia questo e no, non lo voglio, mangia. Che cosa si può fare? Vorrei aggiungere in merito a questo che il palato dei ragazzi cambia col tempo, quindi bisognerebbe coltivare un pochino il loro gusto, che molto spesso viene lasciato da parte, viene così pilotato da quello che ci viene proposto nei grandi supermercati o dalla pubblicità. Andrebbe riproposto con molto garbo, poco alla volta, di settimana in settimana, a riproporre le cose. Nei bambini più piccoli spesso succede per i colori, che rifiutano, sì, un pochino i colori dei cibi. Col tempo bisogna riproporlo, quindi allenare il gusto, questo è un lavoro che parte soprattutto dai genitori, andrebbe fatto con molta pazienza. E dovremmo anche riproporre nuovi modelli, Alberto. Sì, io direi che proprio questo aspetto, da una parte l'approccio nutrizionale, ma poi c'è un'idea che è molto culturale, molto pedagogica, per cui il cibo intanto non serve a scolpire il corpo, tu sul tuo corpo devi lavorare in modo adeguato, in modo da farlo stare bene, questo è l'obiettivo. E tra l'altro, chi ha detto che magro è bello? Sano è bello. Non ci posso credere che abbiamo quasi finito. Anna, ma che ti prende? Mamma, insomma, fa caldo. Tutto questo vapore mi fa sudare come un maiale. Stiamo sudando anche noi, ma non ci togliamo i vestiti di dosso. Perché no? Siamo tutte donne, mamma. Abbiamo tutte le stesse cose. Anna, rimettitela. Estela, Rosalì, pancia, insomma, non morite di caldo con quei vestiti addosso. Mi sento tutta appiccicosa. Ma non ti vergogni? Di cosa? Ma insomma, guardati quanto sei grassa. Mamma, si dà il caso che io mi piaccio. Ben detto, sorella. E tu? Voi tutte e due dovreste dimagrire. Sareste belle senza tutto quel grasso addosso. Curvy, così è la giovane protagonista di questo film, molto bello per le adolescenti, ma curvy è anche una parola fino a poco tempo fa aburrite, che invece oggi viene riabilitata a gran voce, sia dalle riviste di moda, sia da un movimento di donne, intellettuali e giornaliste. Una in linea con noi, appena pubblicato per Mondadori proprio un libro che ha questo titolo, Curvy, è in linea con noi Daniela Fedi. Ciao Daniela! Ciao! E complimenti! Grazie, non l'ho scritto da sola, sì, perché per alleggerire il peso in curva bisogna essere in due, e quindi l'ho scritto con Lucia Serlenga, che è la mia migliore amica, e io sono curvy e lei invece è diventata curvy onoraria. Lei non cambia il suo peso dai tempi del liceo, il mio oscilla più del pendolo di Foucault. Però detto questo, abbiamo sentito l'esigenza di scrivere questo libro perché ci siamo accorte che c'è una rivoluzione che se la sogna quella di Mao. Dopo decenni e anni di dittatura estetica, di dittatura dello stile da parte delle donne Grissina, Gamberetto, Soglio, Lo Stecchino, finalmente arrivano le donne curvy, che non è, questa è una cosa che è venuta fuori durante la stesura del libro. Un giorno Lucia diceva, ma insomma, ma curvy non è un modo anglo chic per dire, e io che sono più libera di lei essendo curvy, le ho detto, per dire culona, non è un modo anglo chic per dire culona, è una morbida e seducente realtà. Naturalmente bisogna... Il dottor Malavazzo si aggiunge fertilità. Ma guardi, io sono figli, per cui sono considerata una specie di Erode, però non scendo sotto un certo peso dai tempi dell'adolescenza. Non è tanto questo, quanto sì, certo, in termini medici c'è anche questo. La prima prova di conclamata anoressia è l'assenza di mestruazioni e quindi l'uscita da dal... È proprio a questo a cui si riferiva il dottor Malavazzo. Sì, insomma, noi speriamo che questo movimento aiuti anche molte ragazze che sono in lotta, no, con le calorie, per cercare di assomigliare a dei modelli, come dicevi tu, Daniela Stecchino, proprio Grissino, ad accettare, anzi a coltivare una forma che non deve essere magra, ma deve essere sana. Usiamo una parola che ha usato anche Daniela Fedi nel suo libro, tonicità. Che tonicità, è... questa è la parola chiave di oggi. Io devo salutare i miei ospiti, Daniela Fedi, grazie, professor Morricone, dottor Malavazzo, Alberto Pellai. Per oggi terminiamo qui, ma potete sempre sentirci sul nostro profilo Facebook. Buonissima giornata. Essere e benessere.